Con riguardo a questa platea, va da subito precisato che non è possibile, attraverso i dati a disposizione del Ministero del Lavoro e dell'INPS, pervenire a un'esatta quantificazione, né soprattutto alla scansione temporale delle uscite. Questa nuova platea di lavoratori da salvaguardare è quantificabile con il margine di errore che le stime necessariamente comportano in circa 55.000 soggetti, come specificato nel seguito, ossia 40.000 lavoratori in mobilità ordinaria a seguito di accordi sindacali stipulati entro il 31 dicembre e con data di licenziamento successiva al 4 dicembre. Di questi potrebbero rientrare nello status di salvaguardato entro il periodo coloro che maturano i requisiti per la pensione entro la fine del periodo di mobilità, in coerenza con il precedente decreto.